le cose preziose andate perdute. Per un ultimo bacio al bicchiere e un altro ancora. Ancora. Elevando il gomito, eleva il suo amore. E il riso scandisce sul viso le ore. Scandisce sul viso le ore.